diamo un benvenuto a chiunque qui per la prima volta o per le prime volte e possiamo accomodarci. Vogliamo aprire una parentesi in questo incontro per ascoltare alcune testimonianze di quello che Dio ha fatto in questo anno nella vita di alcune persone di noi, di alcuni fratelli e sorelle. E sicuramente la testimonianza più bella, più straordinaria, della quale più dobbiamo essere grati, Chiesa, è la salvezza di anime. Siete d'accordo con me? Persone che sono strappate dalle grinfie del nemico, che sono strappate dalle tenebre e vengono alla luce. E questo sarà sempre motivo di gratitudine per noi, perché è il miracolo più grande e lo stesso Dio oggi salva ancora. Amen. È vivo, parla, si rivela e salva anime. E noi siamo così grati per... Quante erano le persone che si sono battezzate quest'anno? Io già parlo dell'anno scorso. Quest'anno è il 2023. Almeno 14 persone diverse, se non ricordo, o 12 o 14. Quindi siamo grati a Dio. Alessandra ha alzato la mano dietro a dire: io mi sono battezzata. Benissimo, esatto. Però non è Alessandra che ascolteremo, ma Antonella che si è battezzata. Quindi vieni Antonella, facciamo un applauso a lei. Vogliamo ascoltare la testimonianza di vita di questa preziosa sorella. Belli che siamo visti da qua. Però buongiorno a tutti, ciao a tutti, ciao Chiesa. Ciao Chiesa. Scusate, chiedo ancora delle conferme. che bello essere qui oggi. C'è qualcuno che non mi conosce, ormai mi conoscete tutti, sono qua da un annetto. Che bello, mi conoscete tutti, allora lo sapete quanto ero monella. Bene. Facciamo lo stesso un piccolo riassunto. Io sono arrivata qui con voi, sono entrata da quella porta per la prima volta un pochino più di un anno fa e ho di nuovo pianto perché c'era la stessa canzone. Dio è buono. Aiuto, comincio già. E Dio è davvero buono. Quel giorno è stato bellissimo, perché ho scoperto un nuovo modo di aprirmi a Dio. È stato anche un po' doloroso, perché tutto questo lungo percorso, che ormai è più di un anno, che è credetemi, è un attimo, però mi ha veramente cambiato, stravolto, messo sotto ogni punto di vista. C'è stata quella che per me è una crescita personale, ma personale in Dio. Quel giorno le parole Dio è buono sono state per me una rivelazione e sono state una promessa che si è rivelata vera ogni giorno, ogni singolo giorno. Nell'ultimo anno aprivo gli occhi, benedizioni. Ciascuno di voi, molti di voi, vedo qua delle facce e vorrei ringraziarvi tutti. Non dico un nome per non dirli tutti, perché sennò comincio e finiamo veramente nel 2027, quindi mi fermo. Ma ognuno di voi è stata una vera benedizione. Anche chi ancora non crede, che qua con me oggi, è stata una benedizione. Perché Dio si serve di tutti noi per benedire le vite di tutti gli altri. E ho fatto delle scoperte che oggi sono diventate delle certezze. Si può dire pazzesco qua? Pazzesche, bellissime. Come si fa a non dire grazie quando scopri che il tuo Dio ti ha creato così, che tu non hai quelle mancanze e che se anche c'erano non ci sono più, perché tu sei nuovo. Non ci sono più perché Lui le ha riempite. E se per caso tu ancora le hai, sai cosa fa Lui? Ti mette intorno i tuoi fratelli e le tue sorelle che ti sostengono, che ti supportano, che ti correggono. Non è facile. Io non sono più felice di prima. La felicità è un'altra cosa. La felicità è una situazione in cui ci troviamo. La gioia della fede è una condizione del cuore, è uno stato di mente, uno stile di vita dove scopri con gioia e sei grato e ti svegli e dici grazie, che bello, grazie. E incontri le tue sorelle e dici grazie. E parli col pastore perché non sai bene che cosa fare. e dici grazie, e leggi la Bibbia e scopri che ci sono dei comandamenti che non sono delle catene, perché chi è fuori non le conosce e le vede come catene, no? I comandamenti fuori sono i nostri limiti, noi siamo quelli limitati, ma non è vero. Quella è la nostra libertà, la libertà di rispettarsi. Io ho scoperto questo molto molto recentemente, io sono single, casomai, così lo dico pubblicamente. Però ho questo sorriso meraviglioso perché non sono sola e perché questo percorso di fede mi ha fatto capire che se io sono importante per Dio, Dio che a tutti noi, mica siamo solo qui, lo sapete, vero, che siamo in tutto il mondo, siamo tutti figli suoi e lui si prende cura di noi uno per uno. Pensate quanto è grande il suo amore, uno per uno. Ecco, se lui che ha tutti questi figli si prende cura di me, come posso permettere io di avere una relazione con una persona che non mi debba amare e rispettare tanto quanto lui? E questa è la mia relazione d'ora in avanti, ed è questo ciò che io desidero dare in qualunque relazione, non solo quella di coppia, nelle mie amicizie, nella mia famiglia che sta rifiorendo, anche se ancora, chissà se un giorno mio papà guarderà questa cosa, è tosta a pensarci. Beh papà, ti voglio bene e con Gesù te ne voglio di più, perché la nostra famiglia onora tuo padre e tua madre, è una nostra risorsa, e quindi grazie, grazie Dio per le nostre famiglie, per ogni famiglia che ci dà, non è solo quella dalla quale veniamo. Per me il pastore Mirko, Giorgio sono una famiglia, Svetlana e Giuseppe che sono lì sono una famiglia, sono i miei vicini meravigliosi. Io auguro a tutti dei vicini come loro, perché sono pazzeschi anche loro. E ho le mie sorelle, le persone che sono state con me, un'altra famiglia. E ogni volta che qualcuno sale qua e mi dà una parola di conforto, una parola di gioia, è un grazie che nasce dal cuore. Quindi io quest'anno sono grata a Dio per il miracolo di avermi aperto alla sua gioia, al suo amore, mi ha coperto di amore e non posso non condividerlo con voi, e con una gioia che non so neanche se riesco a trasmettervela, ma io sono veramente gioiosa. Grazie, grazie a tutti voi e soprattutto grazie a Dio, grazie al nostro Dio, grazie a Gesù. Antonella è meravigliosa perché sa trasmettere così bene quello che il Signore le permette di vivere. Ed è la terza volta che ascolto la sua testimonianza e ogni volta piango. Al battesimo, poi a Matera ho dato a lei la possibilità di dare testimonianza in questo incontro tra diverse chiese, e poi oggi ancora, insomma, speravo che fallissi oggi, che facessi diciamo qualche strafalcione, così chiudavamo questo percorso. Invece sarai chiamata ancora, ti chiamerò ancora a dare testimonianza, perché sei un'edificazione per la chiesa. Amen. Siamo grati a Dio per Antonella. Se ancora non la conosci, vai, abbracciala, è una benedizione. C'è chi ha cominciato l'anno 2023 non nello scenario migliore, però Dio è buono e con la lotta, la preghiera si vince. Io voglio invitare Rino e Anna a dare testimonianza di come il Signore ha operato e continua a operare nelle loro vite e nella loro famiglia, però non anticipo niente. Ho capito che non dobbiamo fare strafalcioni, quindi non ci chiama più, poi attenzione. Il 2023 è stato un anno veramente particolare, non che l'anno prima non è stato particolare, però il 2023 è stato un anno di conferme, un anno decisivo, un anno dove sembrava che non c'era più speranza per alcune situazioni, ma Dio è buono. Cantavo questo canto e piangevo, Dio è buono, Dio si prende cura di noi e la sua grazia anche è infinita. C'è un passo della Bibbia in Giosuè, magari lo possiamo far vedere. Giosuè 24:15 è un passo che lo abbiamo ricevuto 25 anni fa più o meno come famiglia, e abbiamo fatto anche un quadro con questo passo, con una parte di questo verso, e ve lo leggo. Dice: se vi sembra sbagliato servire il Signore, scegliete oggi chi volete servire. O gli dei dei vostri padri serviranno di là del fiume, o gli dei degli Amorei nel paese dei quali abitate. Quanto a me, questo è il quadro che avevamo, quanto a me e alla casa mia, noi serviremo il Signore. Noi abbiamo fatto una decisione di servire il Signore come famiglia, ma non è scontato che tutta la famiglia poi decide di seguire Gesù. Quindi i bambini poi crescono, e diventano adolescenti, alcuni bravi, alcuni più monelli, e si va avanti con la speranza e con la preghiera che loro possono cambiare e ricevere quello che è il dono della vita eterna. Ma qua mi fermo e voglio che Anna continua, così non dico tutto io magari. Sì, ci sono situazioni nella vita dove non ci aspettavamo mai di affrontare. Cose che non avresti mai voluto che nella tua vita arrivassero. Eppure oggi siamo qui e do lode a Dio perché oggi lo posso raccontare, ma dicendo che abbiamo vinto nel Signore. Perché anche se stai attraversando il fuoco, perché era quello che io sentivo di stare ad attraversare, ti assicuro che non ti brucerai. Se in quel fuoco c'è il Signore con te, uscirai illeso, come Daniele quando è stato messo nella fornace ardente. E il re non credeva quando Daniele gli ha detto: tu puoi fare quello che vuoi, ma noi non adoreremo i tuoi dei. E il re ha aumentato 3 volte tanto la potenza di quel forno, ma lui è uscito illeso. E noi siamo usciti illesi. E vi posso dire che non abbiamo puzza di bruciato, perché Dio era con noi. E Giosuè 24:15 era quello che noi abbiamo proclamato giorno dopo giorno: quanto a me e la casa mia ti serviremo. Negli anni ci è stato tolto tanto, ma oggi abbiamo ricevuto più di quello che ci è stato tolto. Come abbiamo detto, nel 2023, il 2023 non è iniziato tanto bene, perché abbiamo portato nel 2023 tutto quello che avevamo vissuto nel 2021, nel 2022, ed era davvero sofferente. E se penso al dicembre del 2023, ero un po' come Elia. Mi sono molto immedesimata nella storia di Elia, e c'è scritto in Re, 1 Re, dal 1 Re 19, dal 4 all'8, e dice: ma egli si inoltrò nel deserto, una giornata di cammino andò a mettersi seduto sotto una ginestra ed espresse il desiderio di morire dicendo: basta, prendi la mia anima, o Signore, poiché io non valgo più dei miei padri. Poi si coricò, si addormentò sotto la ginestra. Allora un angelo lo toccò e gli disse: alzati e mangia. Egli guardò e vide vicino alla sua testa una focaccia cotta su pietra calde e una brocca d'acqua. Egli mangiò e beve, poi si coricò di nuovo. L'angelo del Signore tornò una seconda volta, lo toccò e disse: alzati e mangia, perché il cammino è troppo lungo per te. Egli si alzò, mangiò e beve, e per la forza che quel cibo gli aveva dato, camminò 40 giorni e 40 notti fino a Horeb, il monte di Dio. Perché mi sono immedesimata di questo? Perché, come vi dicevo, abbiamo portato nel 2023 quello che ci era accaduto nel 2022-2021. Molti di voi sapete che Noi abbiamo 4 figli. Giosuè è il terzo, alcuni di voi l'hanno sentito anche testimoniare. Era caduto nel tunnel della droga e sembrava un tunnel infinito, non riuscivamo a venirne fuori. Io ho fatto come Elia, a un certo punto mi sono inginocchiata e mi sono messa all'angolino, ho detto: Signore, non ce la faccio più. Noi ne abbiamo passate tante, ma davvero tante nella vita, ma questa era ancora più dura, perché era sangue del mio sangue, era mio figlio, ed era più pesante doverlo affrontare, dover rialzarsi in piedi come tutte le volte che siamo caduti, e grazie a Dio ci siamo alzati, perché abbiamo confessato quanto a me, quanto a noi e alla casa nostra serviremo l'Eterno. Ma questa volta era duro e doloroso vedere un figlio che si stava perdendo e il suo desiderio era quello di morire. E io ho detto: Signore, non ce la faccio più. Ma a un certo punto lui mi ha detto: alzati, mangia. E io continuavo: Signore, non ce la faccio, Signore, sono stanca. E lui di nuovo: alzati e bevi, lì c'è la focaccia, lì c'è l'acqua. Alzati, mangia e bevi. Qual è la focaccia? Qual è l'acqua? La focaccia era la parola di Dio, era Dio. L'acqua era Gesù. C'è scritto sulla Bibbia che da lui sgorgano fiumi di acqua viva. E se noi andiamo da lui non avremo più sete, perché non è di quell'acqua naturale che noi abbiamo bisogno, di anche quella per sopravvivere, ma per vivere spiritualmente, per combattere colui che non vediamo, perché c'è nel mondo colui che non vediamo, si chiama Satana, si chiama diavolo. C'è chi non ci crede, ma io ti posso assicurare che c'è, perché è una battaglia, noi affrontiamo una battaglia. E abbiamo dovuto affrontare questa battaglia che sembrava che non saremmo mai usciti, però Dio mi ha detto, Gesù mi ha detto, lo Spirito Santo mi ha detto: mangia, alzati. Mi sono alzata, ho iniziato a mangiare, ho iniziato, perché in un certo momento era come se mi fossi lasciata andare, non riuscivo più a leggere, non riuscivo più a pregare, ero così stanca, così abbattuta, era come se prendessi pugni da in qualsiasi parte del corpo. Ho iniziato a mangiare, ho iniziato a bere, a pregare giorno dopo giorno, a leggere, e mi rinforzavo, come c'è scritto qui. Lui prendeva forza da quel cibo che gli veniva dato, e io prendevo forza, e tutte le parole nella mia mente, non perché avessi imparato a memoria la Bibbia, no, perché erano tutte parole che avevo letto negli anni. E nel momento, nel bisogno, dove io ero stanca, dove magari ci sentiamo stanchi, lo Spirito Santo viene con quelle parole e mi diceva: profetizza quelle ossa secche. In Ezechiele c'è scritto: profetizza quelle ossa secche. E questo ho fatto, ho iniziato a profetizzare, a proclamare le promesse che Dio ci aveva dato. Mi ero alzata più forte di prima ed ero molto arrabbiata, ma non verso Dio, no, Dio non c'entrava nulla. Ti devi arrabbiare contro il nemico. Io ero arrabbiata contro di lui, perché per anni avevo permesso di rubarmi quello che il diavolo Dio mi aveva promesso, e lui aveva toccato mio figlio. Noi siamo la pupilla preziosa, siamo i figli preziosi per Dio, e chiunque ci tocca, lui combatte per noi. E in quel momento lui stava toccando ciò che per me era la cosa più preziosa. I miei figli sono la cosa più preziosa per me. E mi sono alzata come un leone ruggente, perché dovevo difendere la cosa più cara che il diavolo stava distruggendo. ho iniziato a mangiare, a bere giorno dopo giorno, sentendomi più forte, anche se la battaglia era sempre più forte, perché lui era arrabbiato per la decisione che avevamo fatto. Ho iniziato a pregare, ho iniziato a digiunare e lui l'ha fatto poi insieme a me. Abbiamo preso insieme, ci siamo uniti ed eravamo più forti. E il Signore ha detto: voi non state combattendo contro Giosuè, non state combattendo contro le situazioni, ma il vostro combattimento, c'è scritto in Efesini 6:12, è infatti contro, non è contro carne e sangue, ma contro i principati e contro le potenze, contro i dominatori di questo mondo di tenebre, contro le forze spirituali della malvagità che sono nei luoghi celesti. Quindi non combattiamo, non combattevo contro Giosuè perché ero anche arrabbiata con lui per le decisioni che aveva fatto e ci aveva portato inevitabilmente nelle sue decisioni. E quando devi affrontare le decisioni di un'altra persona e tu ti trovi a vivere, è ancora più difficile. Ma insieme avevamo deciso di iniziare il digiuno, di pregare, e c'era una voce che mi diceva: vai avanti pensando che non stesse accadendo nulla. Io nella tempesta, il Signore mi diceva: vai avanti e non pensare a quello che ti sta accadendo, tu preoccupati di quello che devi fare per me e io mi preoccuperò di te. E era sempre, la tempesta si faceva sempre più dura, però un giorno ci siamo incontrati con la squadra del pastore e lì ci siamo aperti, lì abbiamo confessato le nostre debolezze, abbiamo anche pianto e ho confessato che nuovamente ero stanca e ognuno di loro ha voluto prendere il nostro peso, ci è stato accanto e ogni settimana abbiamo digiunato, abbiamo pregato e loro sono stati il nostro Mosè e Pur. Nella Bibbia c'era la storia di Mosè, che Mosè quando aveva le braccia alzate vinceva la battaglia e le mie braccia erano stanche, non ce la facevo più a pregare, a digiunare, a pregare da sola, ma loro sono stati i nostri Caleb, Aaron e Kur, ci tenevano le braccia e sono stati sempre accanto a noi. È vero, e da quel momento è stato fondamentale quel momento. Questo mostra che quando ci si unisce, si fa squadra, si fa chiesa, le cose cambiano e le cose sono cambiate. Noi abbiamo preso una decisione insieme, lo facevamo, abbiamo preso la decisione di digiunare e pregare e la cosa incredibile è stata che il giorno dopo, quando abbiamo cominciato il digiuno, Giosuè non è più uscito a drogarsi per giorni e giorni. E quindi abbiamo capito che era veramente un combattimento spirituale, come diceva Anna, no? Non era un combattimento contro Giosuè, era proprio un combattimento, era una questione spirituale, perché tu dal primo giorno, tanto che Davide mi chiedeva, dice: papà, ma non sta uscendo Giosuè, non sta andando più a fare. E ho detto: Davide, ricordi che abbiamo cominciato a digiunare? Da quel giorno Giosuè non è più uscito di casa, tanto che poi l'abbiamo detto in squadra, eravamo entusiasti, lui non lo sapeva, non sapeva niente Giosuè, no? Ma il digiuno, dice Isaia 58, serve per sciogliere i legami, per rompere, per spezzare le catene. E nel digiuno, quando noi preghiamo, non è che noi ci facciamo male e Dio ci ascolta, no, il digiuno ci fa concentrare su Dio. Il digiuno è in ubbidienza alla parola di Dio, tutto quello che è in ubbidienza alla parola di Dio funziona. E noi abbiamo visto poi nel digiuno che è cominciato a funzionare tanto che abbiamo poi coinvolto il nostro gruppo, anche il nostro gruppo dei capocellula. E qua mi devo togliere un sassolino veloce e poi una parentesi, mi sta guardando anche. Quando ho detto che io sto facendo il digiuno a un fratello, lui mi ha detto: ma dall'acqua? mi ha guardato, no? Ha detto, ma dall'acqua, non faccio nome, Colonna, il marito di Antonella, dice, ma dall'acqua, no, mia moglie conferma il digiuno, mio figlio anche che non ci vede mangiare, quindi l'ho fatto, vabbè, andiamo avanti, ce l'avevo di fronte, mi ha ricordato il fatto, andiamo avanti, e quindi il digiuno funziona, ma... Per andare oltre e per chiudere, perché avevamo un quarto d'ora, vero? Mi sa che ce lo siamo già presi, però 5 minuti e concludiamo. La cosa bella è stata che durante poi questo digiuno, durante questo tempo, abbiamo visto che in primis Mattia, il piccolo nostro, è andato in un campeggio e ha deciso, perché quanto a me e alla mia famiglia era qualcosa che a volte sembrava più lontano di quanto lo era, no? Lo vedevi da lontano questo quadro ed era molto lontano, quasi inafferrabile, poi è cominciato ad avvicinarsi questo quadro, no? Era più chiaro quel verso e vediamo Mattia che ad agosto decide di seguire Gesù, dice di sì a Gesù e quindi si battezza, e questo vuol dire che dice di sì alla vita eterna, dice di sì a vivere una vita migliore, perché con Gesù puoi vivere il breve tempo che abbiamo in una maniera differente di quella che lo vivono nel mondo. E quindi dopo un mese e mezzo circa mi chiama il pastore della comunità e mi dice: Rino, state venendo ai battesimi, giusto? Io dico: sì, stiamo venendo ai battesimi. Ci devo dire una cosa, tuo figlio Giosuè si battezza. Ho detto: ma sei sicuro di quello che stai a dire? No, perché era passato dopo tutte le preghiere di giù, poi noi siamo così, no? No, siamo anche un po' così, perché preso alla sprovvista. Però poi in quel momento io mi sono ricordato di Filippo, proprio è stato quell'attimo quando ho detto quelle parole, Filippo è eunuco, che Filippo andò nel deserto, trova eunuco, sapete la storia, e lui credette e eunuco disse: cosa adesso mi manca per battezzarmi? Dice: niente, se hai creduto in Gesù con il tuo cuore ti puoi battezzare. Quindi ho detto: chi sono io che devo dire? Se lui ha creduto nel suo cuore che Gesù, io non lo so, sto a casa, lui sa là, se questo è successo, ho detto: pastore, scusami se ti ho detto così, ho detto: io verrò, gloria a Dio che Giosuè si battezzerà. L'ho detto ad Anna, ci siamo fatti, come si dice a Bari, una testa di pianto, abbiamo gioito insieme per questo, non si poteva credere a quello che stava accadendo. Quando siamo andati là, in sorpresa anche i nostri figli, Ludovico era scioccato a sentire Giosuè che parlava, perché Giosuè non parlava più. Giosuè era in una fase di depressione assoluta, lui era a un angolino, non parlava con più. Quando è arrivato in comunità, lui non parlava con nessuno, era in piena depressione. E sentire Giosuè che parlava di Gesù, anche l'altro giorno che siamo stati, lui mi parlava di Gesù, sentire Giosuè e vedere questo cambiamento, come non si può ringraziare e dare gloria a Dio per questo? Come puoi non dare gloria a Dio? Dolcis in fundo, ciliegina sulla torta, per noi questo è anche importante. Siamo andati a Roma anche e la nostra preghiera era: Signore, fa che l'ultimo adesso che è rimasto, che è qua oggi con la fidanzata, l'ultimo che è rimasto possa dire di sì a Gesù. E siamo andati a Roma nel convegno, poi ve lo fate raccontare, vi mettete in fila, andate da loro, vi fate raccontare da loro. E hanno detto di sì a Gesù nel convegno di Franklin Graham, hanno detto di sì a Gesù. E quindi da qualche anno di tempesta abbiamo visto la grazia di Dio nella nostra casa, noi abbiamo cominciato a godere e a vedere quel quanto a me e alla mia famiglia più vicino, no? Era così chiaro, è diventato così chiaro per noi e non ho parole per esprimere la gioia anche che c'è in tutto questo. No, ho detto: adesso posso anche morire, ho detto, però è egoistico questo, non lo dovevo dire, no? E adesso posso anche morire, sono pronto anche a morire, ma non è così. Cosa abbiamo imparato da questo? Da questo abbiamo imparato a vivere come coppia un'intimità nelle cose difficili, non che non lo facevamo prima, no? Ma oggi stavamo riflettendo, io e Anna, per quante volte siamo caduti, l'altro si è sempre fatto forza poi per aiutare l'altro. Che bello questo, no? Abbiamo pensato: ma che bello questo. quando cadiamo l'altro si fa forza e aiuta l'altro. Questa è la bellezza anche di vivere, la coppia, la famiglia. Ci siamo fortificati in questo, no? Nel 2024 ci aspetteranno altre situazioni difficili, ma sappiamo come fare. E quello che dobbiamo fare è decidere di stare dalla parte di Gesù, semplicemente. Abbiamo anche imparato a essere più perseveranti, più costanti, e abbiamo capito che non dobbiamo fermarci. Qualsiasi cosa accade, non dobbiamo fermarci. Noi abbiamo un obiettivo, e mentre Ebrei dice, mentre il peccato e le situazioni difficili facilmente ci avvolgono, noi corriamo, andiamo verso la meta, non fa niente, come diceva Anna, no? Dio gli diceva guarda avanti e continua a servire il Signore, perché l'obiettivo del diavolo è quello, allontanarti dalle opere che Dio ha preparato per te. L'obiettivo del diavolo è farti mettere sotto quell'albero, e se da quell'albero non ci si alza, il rischio è la depressione, è morire, è la morte. Quello è l'obiettivo ovviamente del nemico, ma noi sappiamo che nella parola di Dio non è così. Aggrappandoci alla parola di Dio, mangiando dalla parola di Dio, vivendo la presenza di Dio, noi possiamo cambiare le circostanze intorno a noi. Ultima cosa, abbiamo imparato che fare gruppo è importante, che stare uniti con gli altri è importante. Noi abbiamo dei gruppi in casa. Ho pensato ai gruppi in casa, e quanto è importante che nei gruppi in casa noi ci possiamo aprire, possiamo avere dei punti di riferimento, delle persone che combattono e pregano per noi nelle situazioni difficili. Una cosa da non fare, la ripeto, l'ho appena detta, è isolarsi. Il leone va attorno, dice la parola, come un leone ruggente cercando di chi può divorare. Se tu vedi un documentario, il leone divora l'animaluccio piccolo isolato che si allontana dal contesto del branco. L'animale che è malato, ha problemi, ha sofferenza, si isola e lo va a mangiare, lo divora. Gesù sapeva quello che stava dicendo. E quindi l'incoraggiamento è: non ci isoliamo. Io sono uno che tende anche ad isolarsi. Tutti tendiamo nei momenti difficili, io non è che so bravo, lo so fare bene. Però tutti tendiamo ad isolarci nei momenti difficili, ma è là che dobbiamo imparare a fare la decisione di confessare, di parlare a tua moglie, al tuo amico, al tuo leader di cellula. Ci sono dei leader degli incontri in casa come riferimento, dove tu puoi andare e puoi chiedere preghiera. C'è una catena di preghiera anche in chiesa, dove tu puoi andare, non restare. Fai tutto ma non restare da solo, fai qualsiasi cosa ma non restare da solo. C'è un verso, e veramente ho finito, un verso che un fratello mi ha inviato ottobre 2021, e questo verso dice: tutti i tuoi figli, questo fratello è Stefano, e ti ringrazio, non so se tu ricordi, me l'ha inviato nel 2021, Isaia 54:13 dice: tutti i tuoi figli saranno discepoli del Signore, e grande sarà la pace dei tuoi figli. Ripeto, tutti i tuoi figli saranno discepoli del Signore, grande sarà la pace dei tuoi figli. Questo verso l'ho messo in grande sul mio telefono, l'ho meditato e l'ho tenuto in macchina. A volte accendevo il telefono e lo mettevo là e me lo meditavo. E dicevo, sì, così, confessavo, sì, tutti i miei figli staranno con il Signore, saranno suoi discepoli, e saranno quello che confessi, quello sarà, quello accadrà. Se confessi la parola di Dio e le verità della parola di Dio, prima o poi verranno. A volte noi siamo impazienti, vogliamo vedere le promesse, vogliamo vedere tutto che si adempi in un attimo. Quel verso, sono più di 25 anni, saranno 28 anni, 27 anni, quel verso che abbiamo appeso a casa, no? Sono passati 28 anni, per noi è tanto, no? Dobbiamo essere pazienti, mi dico, Rino, devi essere paziente. Abbiamo imparato ad essere pazienti, e per questo ringraziamo e diamo gloria a Dio. Ho finito. Grazie. Che preziosa testimonianza. impariamo da questo, gli uni dagli altri, e veramente fa onore anche a Rino e Anna la loro reazione nella fede. E vogliamo alzarci in piedi, forse è stato profetico per alcuni di noi questa parola che Anna ha ripetuto, no? Che leggendo uno re, forse il Signore veramente ti sta chiedendo di alzarti in piedi e mangiare, di mangiare bene, di mangiare e bere del suo cibo. E a volte per mangiare bene efficacemente del cibo del Signore dobbiamo digiunare delle cose di questo mondo, digiunare dal cibo che mangiamo. Siamo in un periodo dell'anno dove si mangia tanto e ci riempiamo, ed è bellissimo riempirci di cibo, ma è ancora più efficace, più importante riempirci della parola di Dio, della sua presenza, e lottare con quelle che sono le armi a nostra disposizione. Quindi se questa parola era per te, io voglio ancora sottolinearla: alzati, mangia. Mangia, prendi una decisione per il nuovo anno, mangia, mangia del cibo spirituale. Se sei un genitore, vivi della fede comunitaria, fallo non solo per te ma per i tuoi figli, mangia. Scegli di cercare il Signore, pregare in maniera incessante per la tua famiglia, mangia, mangia, mangia bene, bevi, alzati, perché c'è un percorso che il Signore ha stabilito per te, che è un percorso di vittoria. E Dio cambia anche le stagioni più difficili, anche le battaglie più difficili che a noi sembrano essere impossibili, Lui ci permette di vincerle. Vogliamo lodare il Signore ancora insieme, vogliamo affidarci a Lui. Quindi io voglio chiederti di, alla luce delle testimonianze che hai ascoltato di Antonella, di Anna e di Rino, di prendere una decisione in questo tempo. Mentre cantiamo ancora Tu sei buono, scegli cosa fare dell'anno che ti sta davanti. È solo un cambiamento di data, però può sigillare un cambiamento anche di stagione, e la tua stagione attuale può essere trasformata mediante la potenza che c'è nel nostro Signore Gesù Cristo, che può ogni cosa. Amen. Quindi lodiamolo ancora insieme, alziamo le nostre voci, cantiamo Dio è buono. Alleluia.